Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gian Domenico Curi, regista del documentario Working Class Heroes, camminando e cantando la canzone del primo maggio, che sarà online in occasione del primo maggio 2020 per la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, promosso dal collettivo Opponiamoci, nato all'interno dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Gian Domenico, ben trovato. Buongiorno. Ci racconti di questo lavoro? Qualche anno fa, quasi una committenza, nel senso che avevamo questo rapporto con il Festival del Cinema Europeo di Lecce, che capitava proprio il primo maggio, e venendo in archivio all'Amo dice: ma perché non cerchiamo di fare una cosa sul primo maggio? Ho detto: ma io da tanto tempo che ho un'idea di una messa in scena del primo maggio in un altro modo, cioè un punto di vista, diciamo, dal punto di vista della musica, dal punto di vista del cinema, provare un po' a mischiare le carte, insomma, anche per tirar dentro anche un pubblico diverso, che non fosse il solito pubblico adulto tradizionale, eccetera, eccetera. Quindi è uscito fuori questa, che poi naturalmente è sempre tutto repertorio, quindi un riciclare in qualche modo il repertorio dell'Amond con questa contaminazione appunto con la musica e con il cinema. Per cui e questa cosa è molto presente, c'è una canzone tematica che è quella di John Lennon, che è poi quella del Beatles, che è Working Class Hero, che tra l'altro è una canzone molto dura, cioè a andarla a sentire verso per verso mette giù delle cose veramente, insomma, in cui ti trattano come un cretino, no? Finché non muori, però devi sapere anche morire, cioè veramente ha una forza che dietro questa musica, anche piacevole, anche bella, poi uno la perde. E per cui, ecco, insomma, poi c'è, che ne so, per darti un'idea, c'è Ziga Vertov con le musiche dei Gang piuttosto che dei Ned Ludd, su famoso disco su Dignità e Lavoro, insomma, tutta una serie di queste contaminazioni, non so, il grande momento della rivoluzione maoista cantata con una canzone di Gian Pieretti che canta Il vento dell'est, no? Quindi che è una storia d'amore, e anche il fuoricampo, cioè, mi ricordo quel primo maggio bellissimo perché per la prima volta ho visto una donna meravigliosa, eccetera, eccetera. Ecco. Però poi le immagini sono quelle, questo contrasto, questa contraddizione tra la musica e le immagini, secondo me funziona molto. Poi naturalmente c'è anche tutto un capitolo invece raccontato al primo maggio vero, c'è proprio una quasi 7-8 minuti di immagine che fa la storia del primo maggio, la storia di San Giovanni, per capirci, insomma, con tutti i momenti più esaltanti. E poi c'è tutta la parte finale dedicata al rapporto tra il cinema e il lavoro, soprattutto lo sciopero, quindi i grandi massacri di operai, insomma, a cominciare dal famoso sciopero di Einstein e poi avanti fino al cinema di Allende, fino al cinema, insomma, più recente, sempre però con questo riferimento appunto del doppio binario, no? E poi l'altro tema importante è proprio la diversità del lavoro e del cinema, assunto di Jean-Louis Comolli, che è un bravissimo documentarista francese e soprattutto un teorico del documentario, che dice: perché il cinema ha filmato così poco il lavoro e così tanto l'amore? E lui dice: semplicemente perché l'amore è l'opposto del lavoro, cioè la vita vera comincia quando l'operaio esce dalla fabbrica soprattutto intesa come catena di montaggio. E c'è un film, c'è una citazione che io neanche mi ricordavo, di un film di Lang con la Marilyn Monroe giovanissima, che c'è questo appuntamento davanti alla fabbrica e che dice, incontrando il suo uomo, finalmente io comincio a vivere appena esco dalla fabbrica. Ecco, per cui sono questi due mondi che sono contrapposti, che non c'è niente da fare, insomma, sono tutto naturalmente un certo tipo alienato di fabbrica. E un'altra canzone che ritorna spesso, una canzone cilena, che si chiama Tere Cuervo Manda, è appunto una canzone di Victor, che definiva una canzone che parla dell'amore degli operai di oggi, del Los Obreros de Ahora, no? Diceva, e ritorna, ci sono più versioni anche qui, perché proprio questo incontro fuori dalla fabbrica è fondamentale, è centrale in qualche modo in questo film. Per i materiali d'archivio cosa hai estrapolato? Guarda, c'è di tutto, c'è soprattutto questo documentario di questo Harun Farocki, che è un documentarista tedesco, che proprio ha dedicato un documentario all'uscita dalla fabbrica e ha trovato delle immagini proprio dagli anni, diciamo così, del pensione del cinema fino ad oggi, e quindi dal cantiere dal muto poi al colore, eccetera, è un percorso molto forte. Poi naturalmente c'è un primo maggio cinematografico che è fondamentale, che è quello di Portella delle Ginestre, naturalmente del film di Rosi. Ci sono tanti, naturalmente poi il primo maggio mette insieme anche tutta la storia del movimento operaio, quindi tutte le conquiste, quindi le lotte degli studenti, quindi il Vietnam, quindi la migrazione, cioè è, in qualche modo poi è un riattraversare un po' tutta la storia del movimento operaio, e finisce con Della Mea che canta l'Internazionale di Fortini, che mi sembra quella che è un testo più forte, più vicino in qualche modo e anche più moderno. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Basta andare su Arcoiris TV e praticamente insieme c'è in home page, basta cliccare e basta. E poi c'è il sito dell'AMO, dell'archivio del Movimento Operaio Democratico, quindi sono poi i due riferimenti. Insomma, c'è questa confluenza tra Arcoiris e AMO che stiamo, diciamo così, praticando, sia per quanto riguarda tutte le interviste sul coronavirus, sia che abbiamo fatto una puntata sul 25 aprile e adesso sul 1 maggio. Mi sembra che sta funzionando, insomma, almeno dagli scatti delle elezioni, insomma, è abbastanza incoraggiante come incontro, come formula, ecco. Working Class Heroes, Camminando e Cantando, la canzone del 1 maggio, online sulla piattaforma Arcoiris TV, grazie al collettivo Poniamoci, nato all'interno dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Un saluto e un ringraziamento al regista Gian Domenico Curi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e buon 1 maggio a tutti. Ciao. Con Vladimir Luxuria, direttrice della rassegna cinematografica gratuita Lovers Online, dal 30 aprile al 4 maggio 2020. Vladimir, ben trovata. Salve. Raccontiamo un po' come si è trasformato il Lovers. È il primo anno che ho l'incarico di direttrice artistica di questo festival ormai storico per la città di Torino e non solo, perché è un festival di cinema a tematica lesbo, gay, bisex, trans, queer, intersex, insomma è un festival conosciuto in tutto il mondo, con ospiti da tutto il mondo, soprattutto per quello che riguarda del cinema. È un festival non solo di cinema, giunto alla 35esima edizione, ma un festival della nostra comunità che si racconta attraverso il cinema e soprattutto attraverso dei film che l'unica occasione magari che si ha per vederli, visto che spesso non vengono distribuiti nelle altre sale, è proprio vederli da noi. Con il coronavirus ci siamo dovuti reinventare, perché ovviamente le sale cinematografiche sono e quindi per ribadire un segnale della nostra presenza, i giorni in cui comunque dovevamo andare, dovevamo esserci nella sala Cinema Massimo a Torino, abbiamo deciso di fare questa versione online, che certo non può essere sostitutiva a pieno di un festival, perché poi il cinema è sala, è maxi schermo, ma è un modo per far capire che i diritti, la nostra dignità non vanno in quarantena. E quindi facciamo questi giorni, dal 30 aprile al 4 maggio, online, quindi si può andare sui nostri canali social, Facebook o Instagram, Lovers Film Festival, Lovers FF, e lì si possono vedere gratuitamente dei film che i registi e i produttori ci hanno fornito gratuitamente, cliccando sul link da tutta Italia. Come era nato il tuo rapporto con il Lovers? Conosco da moltissimo tempo il fondatore del festival, Giovanni Minerva, che appunto 35 anni fa ha fondato questo festival insieme al suo compagno Ottavio Mani. Da parte sua ho ricevuto la proposta di entrare a far parte, diciamo così, dei pretendenti, di coloro che facevano richiesta di diventare direttore artistico del festival. Quindi è stata fatta una scrematura, ho fatto dei colloqui e mi hanno, diciamo, dato questa responsabilità. Avevo lavorato in maniera veramente indefessa per un'edizione, insomma, che io consideravo indimenticabile del festival. Avevo veramente avevamo creato una bella squadra, film già selezionati. Adesso noi abbiamo deciso che il festival vero e proprio lo faremo entro il 2020, quindi entro quest'anno ci sarà l'edizione 2020. Sicuramente ne faremo una versione online, perché è l'unica cosa su cui posso essere sicura, ma se da settembre riapriranno le sale cinematografiche, come mi auguro che aprano anche i teatri e le sale per almeno i concerti, dove ti puoi stare seduto anche se non a pieno regime, a capienza ridotta, noi comunque affiancheremo a questa versione online anche una versione fisica, con tutte le difficoltà del caso, ma io sono una persona abituata davanti alle difficoltà non ad arrendermi ma a intestardirmi. Quali sono oggi le tematiche più battute a livello cinematografico della comunità LGBTQ? Quest'anno in particolare devo dire che c'erano tantissimi film che trattavano il tema dei migranti collegato al tema dell'omosessualità, cioè avevamo avuto molti film che trattavano per esempio la problematicità dei gay nei campi rifugiati, come ottenere lo status di rifugiato, con delle produzioni davvero interessanti. Poi anche il tema del gender fluid è un tema molto forte, perché comunque soprattutto la nuova generazione tende, rispetto alle generazioni passate, a non escludere nessun tipo di esperienza sessuale, senza che, anche se fosse una singola e sola esperienza sessuale nella tua vita, debba darti una definizione. Per chi si avvicinerà a questa edizione online, ci sarà una interazione possibile, per esempio con la presenza degli autori e delle autrici? Sì, guarda, grazie della domanda, perché questo è importante. Se anche fosse solo online, io mi auguro di no, cioè io voglio continuare a sperare che ci sia anche la possibilità di fare delle proiezioni e degli incontri e anche delle performance dal vivo, ma qualora fosse possibile solo online, stiamo già studiando una piattaforma capace di interagire, di poter fare le votazioni e quindi fare il concorso canonico dei lungometraggi, cortometraggi, di documentari, contributi video da parte di appunto dei dei personaggi, attori, registi, con la possibilità anche di fare delle domande dal vivo, diciamo così, via social, e quindi cercheremo di, in qualsiasi modo, di cercare di assomigliare il più possibile alla versione canonica del nostro festival. Lovers Online, hashtag ci manteniamo in linea per quanto riguarda la 35esima edizione del Lovers Film Festival. Sarà una rassegna cinematografica gratuita online dal 30 aprile al 4 maggio 2020. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Vladimir Luxuria. Vladimir, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi. Con Sebastiano Sacco, regista del documentario Nell'ora più buia, online da sabato 25 aprile 2020 con Libera, Ampi e Comitato Don Peppe Diana. Sebastiano, ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Lo descriviamo questo lavoro? Sì, allora diciamo che questo lavoro riguarda la guerra, però non in senso canonico, perché comunque documentari di questo genere ne sono stati realizzati tanti. Quello che è stato un po' l'obiettivo di questa produzione era raccontare un po' la quotidianità della guerra, perché noi sappiamo che in qualche modo, e lo sappiamo anche adesso perché siamo un po' tutti, tra virgolette, reclusi, o comunque abbiamo questa sorta di coprifuoco perenne nelle nostre giornate, sappiamo che però nonostante ciò la vita deve andare avanti, quindi anche nella guerra è stato così e ci piaceva in qualche modo raccontare la guerra dal punto di vista delle piccole cose del quotidiano, quindi la vita nelle case piuttosto che quello che succedeva quotidianamente nei rifugi, al di là delle bombe che cadevano o comunque delle dinamiche, delle macro dinamiche della guerra che si svolgono a livello nazionale o addirittura internazionale, come appunto è stato nel caso della guerra. Qui l'obiettivo era questo, quindi raccontare piccole storie con la guerra non al centro ma piuttosto come sfondo. È un documentario di circa 25 minuti, prodotto da Visiva, è una produzione indipendente, quindi è stato realizzato in questo modo, che appunto sì, dal 25 aprile è visibile su internet, su YouTube e attraverso la pagina, c'è anche una pagina Facebook che si chiama proprio Nell'ora più buia, come il titolo del documentario, è possibile un po' saperne tutte le notizie più approfondite. Quali sono stati i tuoi interlocutori e interlocutrici? Sì, allora io il progetto è partito quasi un po' per scherzo, perché c'è un legame anche personale col progetto, perché avevo già voglia da un po' di tempo di intervistare mia nonna, che quando ho realizzato le prime interviste nell'ormai 2000, lontano, diciamo 2015, ho intervistato prima di tutto lei, perché c'erano questi piccoli riti di incontrarla durante la settimana, 2-3 volte alla settimana, e durante i nostri incontri davanti a un caffè si parlava spesso di questi ricordi. E siccome non erano appunto ricordi, racconti della guerra in sé, ma erano tante piccole storie con questa guerra come sfondo, ho pensato che era opportuno, data anche l'età di mia nonna, insomma, di catturarle in modo tale che potessero essere impresse a memoria. Poi da lì in realtà mi sono reso conto che queste testimonianze erano un po' sparse, c'erano parecchi possibili interlocutori che tramite una serie di contatti sono poi riuscito a rintracciare, il più anziano dei quali è stato prigioniero in Germania e all'epoca dell'intervista aveva 102 anni, quindi insomma persone che purtroppo il tempo pian piano ci priva, ecco, di queste persone, quindi era giusto fotografare questi ricordi attraverso un documentario. Che ritratto viene fuori? Penso che venga fuori un ritratto che alterna, come ha detto qualcuno, che ho ricevuto molti resoconti dopo sabato, dopo la premiere, diciamo, di sabato sulla pagina, viene fuori un ritratto secondo me che ha due anime, una che è quella ovviamente drammatica di tutto quello che è capitato in quel periodo e che queste persone purtroppo hanno dovuto vivere veramente ai limiti di quello che, anzi forse oltre i limiti di quello che è accettabile, e però in realtà mi sono reso conto che poi, forse perché si parla di un'altra generazione, in qualche modo nei ricordi emergeva anche ogni tanto qualcosa di paradossalmente ironico o comunque sarcastico, anche rispetto ai ricordi stessi, quindi credo che il ritratto che ne viene fuori ha un po' questa doppia anima in sé. Credo che questa sia un po' la sua caratteristica principale. Come mai questa collaborazione con queste realtà Libera Ampi e Comitato Don Peppe Diana? Per quanto riguarda Libera ho parecchi contatti relativi comunque a quello che faccio, perché sono anch'io, faccio anch'io parte di Libera ormai dal 2011, quindi siccome Libera comunque non si muove soltanto su iniziative legate alla criminalità, ma anche in generale ecco, a volte anche sulla memoria o comunque su tutta una serie di attività collaterali, ho pensato che potesse in qualche modo essere interessante costruire questo ponte con questa associazione. Poi ovviamente per quanto riguarda Ampi lì era abbastanza diretto il filo, anche se poi nel documentario non si parla direttamente di partigiani, ma come dicevo si parla soprattutto di piccole storie di persone che però o sono state appunto prigioniere in Germania o in Austria, oppure hanno vissuto la guerra in una zona d'Italia che comunque è stata particolarmente coinvolta nel conflitto, che è quella, diciamo, sul confine tra il Lazio e la Campania. Ci lasci tutti i riferimenti? Sì, allora la pagina Facebook che già citavo prima è facebook.com/nell'ora più buia. Questa pagina idealmente potrebbe essere in qualche modo l'inizio di tutto un percorso, quindi invito tutti a seguirla per le prossime iniziative. E poi per quanto riguarda la casa di produzione, visiva.com, e anche Visiva una pagina che è appunto su Facebook, su cui ci sono notizie relative al documentario. Questi sono un po' i riferimenti principali. Nell'ora più buia, online da sabato 25 aprile 2020, insieme a Libera, Ampi e Comitato Don Peppe Diana, un saluto e un ringraziamento al regista Sebastiano Sacco. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, alla prossima e un abbraccio a voi. Con Rodrigo Diaz, direttore del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, per parlare della Cineteca online del Festival, con più di 1000 titoli gratuitamente disponibili. Ben trovato. Altrettanto a voi, anzi con tanti auguri, in questo periodo non è banale l'augurio. Ci racconti di questa iniziativa? Sì, è un'iniziativa che cammina da parecchi anni. Abbiamo trovato la congiuntura a gennaio scorso, le condizioni attuali in cui si devono organizzare gli eventi che tutti conosciamo, ci hanno permesso di accorciare i tempi lavorandoci in continuazione. Devo dire che è un progetto che camminava da almeno 15 anni e che finalmente, con un meccanismo stupendo e con una politica di alleanze di un certo tipo, abbiamo potuto offrire questo servizio. Com'è stata intanto la scelta dei titoli? Già sono 1000 e sono delle scorse edizioni? Sì, la scelta in realtà non è nostra. Noi ogni anno, quando invitiamo la gente ad aderire per partecipare al festival, nell'entiforme chiediamo, in modo optativo naturalmente, chi vuole partecipare a un concorso premio, che però implica anche accettare che il loro film sia nella piattaforma del festival. Così si sono sommati una quantità di titoli davvero straordinari. Da questo momento in poi possiamo dire che faremo delle scelte. In che senso? Sia con l'Spagna, con cui abbiamo stabilito un accordo con le istituzioni spagnole, sia con l'America Latina, l'idea che cammina è rapportarci a tutti gli archivi pubblici e privati, anche perché in questo modo si salva la memoria, perché come diceva un grande teorico latinoamericano, noi nel continente facciamo cinema per l'oblio. Questa è una possibilità di evitare che sia per l'oblio, e quindi avremo persino cinema silente.

titoli che possa però andare incontro a far conoscere quella che è la proposta di Locarno, che appunto spazia dai grandi registi del nostro concorso internazionale. Per esempio ho appena visto e segnaleremo nei prossimi giorni che su Rai Play c'è Le Chat-Inver di Joselliani, fino a appunto Blaze di Tanook, veramente titoli diversissimi che però raccontano un festival che è sia il lancio per giovani autori sia ingloba un lato molto più popolare. Sono sottotitolati, sono a fruizione gratuita? Essendo su varie piattaforme di streaming, ovviamente ognuna ha le sue esigenze. Nello scegliere questi titoli abbiamo preferito segnalare dei titoli che per esempio potessero essere gratuiti sulle varie piattaforme, però ovviamente nella varietà della proposta ci sono anche tanti titoli che sono a noleggio con caratteri differenti per ogni piattaforma. Fino a quando? Questa è la domanda che ci facciamo tutti. Questa iniziativa accompagnerà la quarantena, quindi finché non finisce la quarantena andrà avanti nella speranza di ritrovarci quest'estate a Locarno. Ci dai tutti i riferimenti in chiusura? Potete trovare la nostra selezione sia sul nostro sito internet www.locarnofestival.ch, in cui trovate una news in home page, Locarno Home Festival, da cui potete accedere a tutta la lista delle nostre proposte. Ovviamente ogni giorno queste proposte sono aggiornate e rimandate su quelli che sono i nostri social. Locarno Home Festival, i film in streaming delle passate edizioni. Un saluto e un ringraziamento a una delle curatrici, Daniela Persico. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB. Distribuzioni dal basso, per parlare di un'idea che ha avuto il portale per la cultura ai tempi del contagio. Paco, ben trovato. Buongiorno a tutti come sempre. Allora, streaming di comunità, ce ne parli? Sì, allora noi abbiamo deciso sabato scorso, tre giorni fa appunto, di lanciare questa pagina speciale, diciamo, temporanea, che abbiamo chiamato streaming di comunità. Se andate a vederlo lo trovate appunto su openddb.it. È anche, volendo, un sistema costruito in emergenza, quindi molto grossolano, ed è giusto che sia grossolano in situazioni come queste. La riflessione che noi abbiamo fatto, abbiamo cercato di farla molto velocemente, è stata proprio quella di dire: bene, noi, anche noi come tantissime altre persone in realtà in questo momento non stiamo capendo fino in fondo tutta la situazione, perché ha troppi livelli di complessità e di conseguenze e di impatto sulla nostra vita sotto qualsiasi livello lo guardiamo. E quello che abbiamo deciso di fare allora è l'unica cosa che potevamo fare, rispondere con i nostri strumenti senza prendere una posizione, tra l'altro, perché in questo momento noi stessi non sappiamo che posizione prendere su una situazione così drammatica, anche perché in questo momento noi chiaramente siamo messi in ginocchio come tantissimi altri indipendenti, perché le sale sono chiuse, perché si è bloccato tutto, ma io non posso non pensare che in questo momento dentro le carceri ci sono le rivolte in corso, sono morte delle persone a carcere di Modena, per cui tutto va misurato anche secondo le giuste equidistanze, secondo i giusti pesi e contrappesi, nel senso che è tutto in gioco in questo momento. L'unica cosa che noi potevamo fare è non prendere una posizione, tra l'altro, perché come vi dicevo non ci sentiamo di prendere una posizione politica in questo momento sulla situazione, era di lanciare con i nostri strumenti e con il nostro immaginario uno streaming comunitario di emergenza, che in sostanza significa un lungo nastrone, come si faceva una volta, anche se in digitale in questo caso, di documentari, estratti video, probabilmente adesso faremo anche audiolibri e altri tipi di formati, rigorosamente ad accesso gratuito. Gratuito nel senso che lo streaming costantemente va avanti, quindi è come una diretta, fondamentalmente come un canale televisivo, quindi non si possono scegliere i contenuti singoli, e lasciamo eventualmente a chi vuole la possibilità di una donazione che ovviamente va ai film e agli autori indipendenti che nella singola giornata noi trasmettiamo. Abbiamo fatto anche una call non solo con gli autori interni di DGB, cui sono molto orgoglioso di poter dire che nell'arco di poche ore in più di 50-60 autori ci hanno risposto e ci hanno dato il consenso di inserire anche il loro film nella trasmissione collettiva, ma soprattutto nelle prime 24 ore abbiamo fatto 10.000 spettatori, un numero gigantesco per noi e che vale in realtà tantissimo ma anche niente allo stesso tempo, perché non ci sentiamo in questo momento di rivendicare nulla nemmeno sui numeri che stiamo facendo. Questo numero però cita semplicemente la dimensione del fatto che era importante fare questo piccolo gesto e siamo molto felici di averlo fatto. Continueremo a farlo nei prossimi giorni. L'idea nostra, ma tutto ovviamente è lasciato un po' anche agli eventi e alla situazione d'emergenza, l'idea nostra è di cercare di garantire con i nostri piccoli strumenti e anche con i nostri computer, che faranno molta fatica a gestire questa cosa, una lista di 8, 10, 12 titoli di film e documentari che vanno in streaming automatico ogni 3 giorni, ogni 3-4 giorni, quindi ogni 3-4 giorni noi cambieremo la programmazione. Questo più o meno è l'idea che abbiamo, ovviamente è un work in progress, la cosa molto bella, come vi accennavo, è che tanti autori del catalogo hanno già detto sì, quindi abbiamo tante opere da mostrare, ma abbiamo anche lanciato una call nazionale in generale, aperto ovviamente a tutte le autrici e autori indipendenti anche che non sono già nel nostro catalogo, perché questo è il momento di fare comunità. L'unica parola che noi abbiamo infatti rivendicato anche in quella pagina che voi andrete a vedere è proprio questa, comunità. È l'unica parola su cui in questo momento noi ci possiamo aggrappare, è l'unica parola che ci può, l'unico concetto che in questo momento ci può tutelare e salvare, perché la situazione ha talmente tanti piani di complessità che se cominciamo ognuno a pensare a se stesso non ne usciamo. Certo. Chiaramente avete la sponda radio settimanalmente per l'evolversi della situazione e anche delle iniziative che metterete in campo. Volentierissimo, ci fa molto piacere, perché in questo momento è davvero importante essere tutti uniti, e lo so che tu sta continuando a dire lo stesso concetto, ma in questo momento penso sia l'unico concetto che ci rimane a disposizione. Un abbraccio Paco, a presto. Grazie a voi, a presto. Con Letizia Cortini, una delle curatrici del progetto di didattica online dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Letizia, ben trovata. Buonasera a tutti, a te Federico e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ci presenti questa iniziativa? Sì, dunque, in questo periodo di forzata emergenza a casa e quindi di teledidattica, l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico è una fondazione culturale che ha un patrimonio di cinema, soprattutto documentario, che va dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri, con particolare, diciamo così, importanza soprattutto per il periodo che va dagli anni 60 agli anni 80 del Novecento. Si tratta di film di militanza, di inchiesta, che riguardano il mondo del lavoro, che riguardano la società contemporanea dell'epoca, ovviamente la storia quindi contemporanea, ma anche la storia sociale, la storia economica del nostro paese, la storia del costume, la storia urbanistica anche, dei cambiamenti dal punto di vista della modernizzazione, dell'emigrazione nelle città, la storia dei movimenti collettivi, delle battaglie per i diritti dal punto di vista sociale, civile, politico, del lavoro, sindacale, eccetera. Quindi un patrimonio unico che tutto sommato è ancora molto poco o non abbastanza conosciuto, se non dagli addetti soprattutto del settore. E stiamo cercando da anni come fondazione culturale di renderlo sempre più diffuso e fruibile nel mondo della scuola, perché come fonti quelle audiovisive, cinematografiche stanno sempre più

Come si fa? Come faremo tutti a non avere qualcosa in comune comunque, no? Sentirsi così tutti separati. E allora, non potendo fare la proiezione come facciamo sempre, insomma, da 23 anni, ci tengo a dirlo, al The Tour, ho pensato che potevamo consigliare un film gratuito, uno streaming gratuito, legale, ovviamente, perché andava consigliato, e cerchiamo sempre di darlo in lingua originale con i sottotitoli in italiano, perché è ovviamente la nostra tradizione, però a volte, ecco, quello che offre il web, comunque, ecco. E la ricerca è un po' complicata, perché richiede un po' tutto il prisma, no, di offerta che dà il The Tour, e quindi sto cercando, perché poi me ne sto occupando io, di dare consigli per tutti i vari diversi tipi di pubblico del The Tour. E la scelta, diciamo, numero uno è stata L'ultimo uomo sulla terra, ovviamente, dati i tempi, del 64, e anche perché abbiamo pensato di dare un'alternanza anche cronologica della storia del cinema, passando un po' da tutti i generi. E L'ultimo uomo sulla terra, ovviamente, rimane soltanto un uomo dopo un'epidemia che però trasforma tutti in vampiri, e ci sembrava adatto cominciare. E poi, ecco, un altro esempio di film che è stato già proiettato poi al The Tour, un po' tutti questi in questi anni sono stati proiettati poi al The Tour, tipo la parte dedicata all'arte di cui mi occupo io, e ho pensato di offrire ai nostri soci, a tutti i followers, poi non tutti sono soci ma ci seguono un po' da tutto il mondo grazie al web, Downtown 81 di Ado Bertoglio, che racconta la storia di Basquiat quando era giovane, il modo di vivere un po' la downtown di quel periodo, con una fantastica colonna sonora e anche tutta la scena musicale del periodo degli anni 80, Blondie, Torpedo Moon, è veramente un film bellissimo. L'ho trovato, sono contenta poi perché l'idea c'è, poi va trovato online, l'ho trovato e sta sempre tutto questo sulla nostra pagina Facebook, è tutto qui, quindi potete andare anche oggi, non è che poi sparisce, ogni giorno c'è e poi rimarrà fino a che non ci liberano, e questa è la parte dedicata all'arte. Poi ho pensato anche a qualcosa per i bambini, perché abbiamo tanti amiche e amici che sono con i bimbi a casa, e allora abbiamo pensato di, offrire qualcosa anche per loro. Un'idea di Daniele è stata della Regina delle Nevi, che è un film dell'Unione Sovietica del 57, con cui molti di noi alla fine, molti di noi sono cresciuti, io l'ho visto mille volte, è un piccolo gioiello dell'animazione sovietica. Invece poi finalmente sono riuscita a scoprire che Cinema Ambiente di Torino, il festival, l'ha messo online, poi ho fatto tutta una ricerca, è molto complicato. Il Cinema Ambiente ha messo online dei film, dei documentari sull'ecologia, che anche questo è da sempre un'offerta di programmazione del The Tour, e quindi oggi proprio il film del giorno, grazie a Cinema Ambiente, The Human Element, l'elemento umano, che racconta un po' quello che l'essere umano sta facendo accadere sulla Terra, però attraverso l'occhio di un grandissimo fotografo che si occupa proprio di ambientalismo. Poi ecco, il 24 marzo è morto Stuart Gordon, grandissimo regista horror, quindi facciamo un omaggio a Stuart Gordon, che probabilmente molti di voi conosceranno per Reanimator dell'85, ma Reanimator non si trova in gratis, però ho trovato Caster Freak. In contemporanea a questa selezione avete lanciato anche una campagna per salvare il cinema. Già, sì, questa è la parte meno divertente, nel senso sì che ci siamo trovati in grossa difficoltà, come tantissime altre associazioni con cui veramente siamo solidali, e siamo rimasti come un buco in tutto questo piano economico, e non c'è nessuna associazione nazionale, nessuno che abbia la forza di far sentire la nostra voce, tranne quelle sportive sì, perché vabbè, altre strade. Quindi sì, paghiamo comunque l'affitto, paghiamo tutto come se niente fosse, ma siamo chiusi, ne avevamo deciso già di chiudere un po' prima perché avevamo visto un po' la gravità in Cina e anche lì al nord, abbiamo pensato come persone responsabili, soprattutto per noi stesse ma per tutte le persone che ci vengono a trovare, di chiudere anche giorni prima del decreto, e quindi l'affitto però va pagato tutto. E allora abbiamo detto, vabbè, chiediamo l'aiuto di tutte le persone che ci amano, che ci seguono e che ci vogliono bene, con molta umiltà, perché poi sai, chiedi i soldi in un momento difficile, e invece ci sta una risposta veramente fenomenale, emozionante, guarda, i brividi mentre lo dico, e siamo quasi a metà percorso,